Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, l'ultima puntata di questa settimana da dimenticare per i mercati di Focus Economia. Inizia adesso da dimenticare, vediamo subito l'aggiornamento. Abbiamo raccontato pochi istanti fa nel GR la giornata dopo la terribile chiusura di ieri a sorpresa, devo dire, di Wall Street. Altrettanto terribile oggi la chiusura del Giappone, il Nikkei ha perso il 9,6%, aprono le borse europee e sono subito dolori. Arrivano a perdere Francoforte e Londra fino al 10%, si ipotizza addirittura sul mercato la sospensione delle borse, lo ha detto il Presidente del Consiglio Berlusconi, lo faremo ascoltare, il quale è arrivato anche a dire a mercati aperti che bisognava comprare Enel ed Eni e poi di non vendere Mediaset, poi vedremo se questo ha avuto qualche influenza sui titoli, ma al di là di questo Wall Street poi tenta un recupero, arriva vicino alla parità, le borse europee migliorano circa un'ora fa e poi di nuovo Wall Street sta peggiorando, perde il 4%, a seguire Parigi meno 7,1, Londra meno 7,7, Francoforte meno 6,6, Milano meno 5,7, insomma di riffa o di raffa anche oggi le borse europee lasceranno tra il 5,5% e il 7,5% sul mercato, nonostante la Consob abbia bloccato tutte le vendite allo scoperto, non solo le abbia limitate come nei giorni passati. Le vendite allo scoperto sono quelle vendite che avvengono senza avere fisicamente acquisito i titoli. Tutte le vendite allo scoperto sono bloccate fino al 31 ottobre dalle 14 di oggi. Si è salvato qualcosa? Sì, si è salvato qualcosa come Mediaset più 5%. Italcementi più 3,4, Atlantia più 2,3, Geox più 1,4, Bulgari più 1,2%. Che cosa è stato particolarmente venduto fino a questo momento? Beh, tutto il comparto bancario, con Unicredito che perde il 12,6% adesso, UbiBanca il 9,8, il Banco Popolare perde l'8,9, Fondiaria il 7,5, il Monte dei Paschi perde il 6,3%. E invece se la passa un po' meglio rispetto a come andava a inizio seduta Intesa San Paolo, che adesso è sempre sotto i 3 euro per azione a 2,90 euro, ma perde solo, a me viene da ridere dire solo, ma insomma il 4,8%, così come 4,8 lo perdono le generali. La Banca Popolare di Milano, scusatemi, meno 4,1% e Unipol meno 3,5%. Particolarmente male poi anche Telecom Italia, che a questo punto è scesa a 75 centesimi di euro per azione, incredibile, meno 9%, Seat meno 6,7%, Enel ed Eni, nonostante gli inviti del Presidente del Consiglio a comprare questi due titoli, i titoli hanno avuto un leggero movimento ma poi stanno riperdendo, adesso il 6,6% Eni e il 6,7% Enel. Rispettivamente Eni a 13,88 euro, Enel a 4,70 euro. Vedremo di capire anche perché si vendono titoli come quelli energetici o industriali. Vi anticipo, in sostanza, quando i gestori dei fondi comuni di investimento, i gestori di portafogli perdono moltissimo su alcuni settori, nel caso specifico quello finanziario e assicurativo, è chiaro che vanno a vendere i settori dove perdono di meno, o i titoli dove stanno ancora guadagnando o comunque dove perdono molto poco, per pareggiare quello che è l'andamento complessivo della gestione. E allora non solo vengono vendute a man bassa le banche, ma a questo punto su certi titoli, per esempio gli energetici, per esempio altri titoli industriali in cui si guadagnava qualcosa, si va a vendere per portare a casa almeno lì una plusvalenza o quantomeno fare media sulla perdita complessiva. E in questo modo, per quello che dicevamo di riffa o di raffa, viene giù tutto. Vedremo anche quanto hanno perso i singoli settori di borsa a livello europeo, aspettando poi di capire quale sarà la chiusura definitiva. L'euro è a quota 1,3491, ha parlato anche il presidente americano Bush, ma l'America adesso perde il 4,3%, quindi la chiusura sarà sui minimi, Parigi meno 8,1 in questo momento. Verrebbe voglia di andare tutti quanti in vacanza, ma soprattutto ci andassero gli operatori di borsa, così noi riusciamo a parlare anche di altro. E va bene, è arrivato lo tsunami, dicono alcuni di voi, C'è arrivata, è arrivata una pioggia nera, cantavano anni fa un gruppo abbastanza conosciuto per quello che riguarda il gruppo musicale. Sto guardando, spendo tempo perché sto guardando i dati, il meno 8,20 adesso Parigi, dicevo, i Cult cantavano "È arrivata la pioggia". Avrebbe voglia di tenerla oggi la base, la musica, così parliamo di qualcos'altro. Sì, è arrivata una pioggia di vendite su tutti i listini da inizio settimana. Vediamo qual è il bilancio, fa male dirlo, ma insomma in una settimana Milano ha perso il 16%, Parigi il 15,5%, Francoforte il 16%, Londra il 14%. Da inizio mese il 24% è quello che ha perso la borsa di Milano, praticamente si è ridotta di un quarto la capitalizzazione. Parigi meno 20, Francoforte meno 21, Londra meno 20%. E allora da inizio anno a questo punto il calcolo dei danni è pari a un 50% di calo su Milano, la metà della capitalizzazione di borsa. Parigi meno 40, Francoforte meno 36, Londra meno 31. Perché Milano perde un po' di più da inizio anno? Perché da noi pesano molto i titoli bancari e assicurativi, che chiaramente sono il settore più penalizzato in questo momento. Certo, c'è chi se la passa peggio, Mosca meno 60% da inizio anno, meno 26% per quelle poche volte che è riuscita ad aprire la borsa di Mosca. L'America perde, ha perso tanto da inizio anno, ma meno di Milano, un 40%. Tokyo ha perso un 40% e poi Shanghai, la borsa cinese, da inizio anno ha perso il 60%. Vedremo quando si fermerà. Io ripeto, nessuno in questo momento sa fare previsioni, è sbagliato confondere e allargare diciamo la crisi che sta attraversando i mercati finanziari con quella che potrebbe implicare l'economia reale, ma soprattutto è sbagliato allargarla a temi che non c'entrano nulla, la sicurezza dei depositi bancari, la sicurezza dei risparmi. Il punto è che secondo quanto stimato dal Fondo Monetario Internazionale, il danno complessivo dovrebbe essere intorno ai 1.400 miliardi di dollari. Per ora ne sono emersi allo scoperto circa 635-650, per quello che ci capisco io siamo a metà. Eh sì, meglio amare la pioggia che sta travolgendo i mercati a metà, forse siamo a due terzi, forse siamo un terzo, comunque non è finita. Non si riesce a capire in questo momento perché l'America non riesca, nemmeno dopo la giornata di ieri, a riprendere un po' di fiato. Dichiarazioni che adesso vi leggeremo in ordine, perché insomma dal Giappone è arrivata tra l'altro questa mattina una maxi iniezione di liquidità, 41 miliardi di euro buttati sul mercato dalla banca centrale giapponese per garantire liquidità al sistema, e poi il Giappone ha detto siamo pronti a convocare un G8 straordinario. E poi manco a dirlo, Mosca ha di nuovo sospeso i suoi mercati finanziari, lì praticamente non ce la fanno proprio ad aprire, mentre per quello che al di là della decisione della Consob italiana di bloccare tutte le vendite allo scoperto, oggi c'è stata anche un'asta dei bot, il tesoro ha dovuto aumentare da 4 a 6 miliardi di euro vista la richiesta dei risparmiatori italiani, il rendimento chiaramente a quel punto è in calo sia sui tre mesi che sull'anno. E poi poco fa, mezz'ora fa, ha parlato il presidente americano Bush, ha detto useremo tutti gli strumenti per risolvere questa crisi. L'ansietà sull'instabilità aumenta il problema, un po' criptica questa dichiarazione, usciremo tutti assieme da questa crisi, sì. O tutti dentro o tutti fuori. Va bene, allora raccontiamo anche questa ennesima giornata di cali, lo raccontiamo partendo, diciamo, dalla cronaca italiana, poi arriveremo allo scenario europeo. Ripeto, oggi non c'è molto da dire, adesso Unicredit perde il 13%, UbiBanca al 10%, sospeso il Banco Popolare per eccesso di ribasso in questo momento, Tenaris perde il 14,3%, Unicredit sospesa oggi anche per eccesso di ribasso. E allora partiamo da questa mattina, lasciamo i cult e la loro pioggia, occupiamoci di quella appunto sui titoli. Questa mattina il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha invitato ai media in primo luogo, noi cerchiamo di farlo da giorni, ma insomma a non alimentare l'allarmismo e a rafforzare le istituzioni europee e soprattutto, viste le turbolenze dei mercati finanziari, anche a garantire la trasparenza nel mondo bancario. Poi è intervenuto in conferenza stampa a Napoli il Presidente del Consiglio Berlusconi, conferenza stampa che è seguita al Consiglio dei Ministri, e ha detto: attenzione, tra le ipotesi c'è anche la sospensione dei mercati. Le misure saranno misure globali e saranno misure innovative. Che cosa fare? Ci sono tante ipotesi, però credo che siano abbastanza avanzate e concordate le volontà di arrivare a riscrivere i regolamenti, le regole della finanza internazionale. Si parla di una nuova Bretton Woods, si parla di sospendere i mercati per il tempo necessario a scrivere queste regole, sono tutte ipotesi su cui ci si deve confrontare. Certamente la soluzione non può essere una soluzione del singolo paese, ma deve essere una soluzione nemmeno dell'Europa, deve essere una soluzione globale, da prendersi dalle istituzioni mondiali. Calta e Cure, così il Presidente del Consiglio Berlusconi. Oggi veramente, lo dico senza ironia, ma verrebbe voglia di fare un programma musicale. E giustamente alcuni di voi ci stanno scrivendo al 349-238-6666 dicendo: beh, se Milano perde un po' di meno, meno 6,5 adesso, vabbè, ma insomma un punto in meno è perché hanno vietato le vendite allo scoperto, sicuramente questo può essere un elemento. Poi sempre il Presidente del Consiglio ha corretto il tiro mezz'ora fa, ha detto: mercati sospesi, mai esistita questa ipotesi, sono solo voci raccolte dai media, forse vi sarà bisogno invece di ricapitalizzare alcune banche, non ci sono situazioni così evidenti come Unicredit, ci sono al massimo situazioni in cui forse occorrerà un minimo di aumento di capitale. E allora poi il Presidente del Consiglio è tornato a dare consigli agli azionisti. Ieri aveva detto: comprate azioni, non vendete Mediaset, perché comunque nei prossimi 18-24 mesi le azioni torneranno a dare i loro frutti. Oggi ha detto: chi ha liquidità, chi ha soldi in contanti, compri azioni, no al panico. Ci sono azioni che valevano 10 un anno fa e che adesso valgono 2, 3, 4 euro. E poi ha indicato anche alle 15:10, mercati completamente aperti, quali azioni comprare. Nelle borse c'è esattamente la situazione opposta a quella della grande crisi del 1929. Allora si era creata una situazione di azioni ipervalutate, perché gli speculatori prendevano le aziende che valevano 100 e le facevano diventare a valore 1000 per poi vendere le azioni. Quando questo è diventato un movimento generale, tutti se ne sono accorti, le azioni sono ritornate al valore vero delle aziende e c'è stata di gente che si è dovuta suicidare. Ma era un mercato gonfiato, lontano dall'economia reale, dalla realtà. Da noi succede esattamente il contrario. Succede che oggi sono sottovalutate dal mercato le azioni di quelle aziende che hanno una loro concretezza positiva, che fanno utili. Eni, Enel per esempio, che continuano a fare utili, anzi grazie al prezzo del petrolio, l'Eni presenterà quest'anno un bilancio straordinario. Eppure è ridotta la valutazione delle singole azioni sul mercato. Io dico il momento di comprare Eni e Enel, perché Eni e Enel con quei rendimenti dovranno per forza ritornare ad avere un altro valore. I titoli, lo dico subito prima di iniziare con varie polemiche, si sono mossi poco nonostante queste dichiarazioni. Enel adesso perde il 7,5% ed Eni il 5,85% a 14 euro per azione. Beh, se immaginiamo che Eni ne valeva 28 nell'anno scorso e poi comunque anche un anno fa esatto era ancora 26 euro per azione, cioè vedere Eni oggettivamente, lo dico, a 14 euro, insomma è la metà del prezzo, il petrolio resta 88-87 dollari al barile, chiaramente non è, da quello che capiamo, un giudizio negativo su questi titoli, è che stanno vendendo, lo ripeto perché continuate a scrivere, molti operatori stanno chiudendo le posizioni anche là dove guadagnano, per fare media, insomma, se da una parte perdi il 20 dall'altra guadagni il 10 cerchi di fare media. E per quello che riguarda i mutui, anche su questo è intervenuto il Presidente del Consiglio, ha detto: sul piano finanziario non vedo motivi di preoccupazione. Io continuo a mantenere una intima serenità e dico che noi dobbiamo andare avanti, nonostante questa crisi appunto, ad essere fiduciosi in quello che siamo. Siamo un paese manifatturiero, un paese che produce cose, prodotti, secondo in Europa soltanto alla Germania. Dal punto di vista del sistema bancario, per la nostra inveterata abitudine ad essere risparmiatori, abbiamo il sistema bancario più solido d'Europa. Le nostre banche non hanno fatto prestiti a chi non poteva avere le possibilità di restituire il prestito, non hanno dato mutui elevando il valore dei mutui al 100% dell'immobile, ma soltanto al 50%. Le famiglie italiane possiedono per l'83% gli immobili, essendo un fatto assolutamente prioritario per il futuro della famiglia, non hanno messo in vendita questi immobili in nessuna situazione, quindi il prezzo degli immobili si è confermato e sino ad oggi c'è un calo leggerissimo di certi consumi dovuto al fatto che certi beni alimentari hanno subito l'aumento di domanda mondiale da parte dei paesi emergenti, la Cina e l'India, e quindi si sono alzati i prezzi del grano e di altre componenti alimentari. Ma per il resto noi vediamo che i fatturati delle aziende si mantengono sui livelli su cui si erano portati negli anni precedenti. Non siamo in un momento di grande sviluppo, ma non siamo ad oggi neppure in una recessione. Così il Presidente del Consiglio Berlusconi in conferenza stampa oggi. E allora altre dichiarazioni tutte sul tema, mentre, mamma mia, l'S&P MIB perde il 7,2% adesso, il MIB del meno 6,4%, Parigi meno 7,5%, Francoforte pure, Londra meno 8,3%. Perché? Perché l'America è tornata a peggiorare, meno 4,1% il Dow Jones, meno 3,4% il Nasdaq, l'euro a 1,35%. Unicredit meno 14,2, Telecom meno 10,7, Ubibanca meno 10,7, Banco Popolare meno 9,1, Fondiaria meno 8,91, qui butta peggio di lunedì. Vabbè, andiamo avanti con le dichiarazioni, perché in questo momento diversi sono i fronti, non c'è solo il fronte borsistico, ormai la borsa ha perso metà del suo valore, chi è dentro ci resti a sto punto per vedere se riesce a recuperare qualcosa. E molti sono già usciti. Il problema, lo ripetiamo, è la tenuta del risparmio come problema immediato, ma il problema nel medio termine è capire che questa crisi non si trasferisca a pie pari sull'economia reale, che da un calo nei risparmi non si passi a una riduzione di posti di lavoro. E allora andiamo con ordine. Prima le assicurazioni, che significa anche polizze vita. Il presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai, intervistato dalla nostra Vanessa Colangiuli, dice: il sistema assicurativo è solido. Le ripercussioni della crisi finanziaria sul settore assicurativo italiano, in particolare ed europeo più in generale, inevitabilmente ci sono, visto che la componente dell'attività finanziaria è una componente rilevante anche nell'industria assicurativa, ma sono fronteggiabili con serenità, stante la grande solidità del settore e il fatto che nel settore assicurativo, nell'industria assicurativa in generale, quella italiana in specifico, l'attività finanziaria è sempre stata strumentale all'attività assicurativa. This is not America, this is not Wall Street, non sappiamo più che cosa inventarci come basi musicali oggi per alleggerire una puntata che altrimenti obbligherebbe molti di voi, soprattutto non appartenenti al gentil sesso, a guidare con una mano sola. Allora noi cerchiamo anche di rallegrarvi, ma è difficile, ve lo assicuro. Oggi Cerchiai, presidente dell'ANIA, dice che non c'è nessun problema sul settore assicurativo e questo è un fronte. Il presidente di Telecom Italia, Gabriele Galateri di Genova, ha detto agli azionisti Telecom: non vendete mai come adesso, penso che si debba stare fermi e tenere le azioni che si hanno aspettando che si ricostruisca un'atmosfera un po' più tranquilla. E poi il fronte delle imprese. Oggi il vicepresidente Confindustria Alberto Bombassei ha detto: le misure del governo contro la crisi finanziaria sono un buon segnale, ha detto: evitiamo gli allarmi eccessivi. Ma sicuramente il fatto che ci abbia un impatto sulle imprese, quindi sui consumi, mi sembra abbastanza evidente. Credo che però non bisogna fare dell'allarmismo eccessivo, perché acutizzeremmo credo il problema, quindi bisogna essere molto realisti, guardare la realtà per quello che è e cercare di mettere dei rimedi. Credo che le misure che il governo ha preso nel mondo della finanziaria e bancario sia un buon segnale. Dobbiamo cercare di essere realisti anche sulle altre cose. Anche l'incontro di oggi poteva essere un'occasione per dare un segnale di omogeneità e di interpretazione, visto che siamo un po' sulla stessa barca. Purtroppo non siamo riusciti a arrivare a questa condivisione totale, ma credo che anche questo dovrebbe essere un segnale forte da dare al paese, da dare alle imprese o alle industrie in un momento estremamente difficile come questo. Volete le chiusure? Eccole: meno 7,20% l'S&P MIB, meno 6,4% il MIBTEL, meno 8,80% Parigi, meno 8,7% Francoforte, meno 7,80% Londra. Come mai? Beh, l'America sta perdendo adesso il 5%, giusto per non farsi mancare nulla, e anche il Nasdaq meno 4,2%, l'euro scende sotto quota 1,35, 1,34,72. Tenaris, il peggior titolo, meno 16%, Unicredito meno 14,2%, Telecom meno 10,7%, UbiBanca meno 10,7, Banco Popolare meno 9,1, Fondiaria meno 8,90, Monte dei Paschi meno 8% come Banco Popolare, Seat Pagine Gialle meno 7,80 come Pirelli, 7,6 lo ha perso Intesa, 7,4 Saipem, 7,2 Enel. Allora, professor Giacomo Vaciago, buonasera. Buonasera a tutti. Di cosa vuole che parliamo? Beh, parliamo non di borse. Non di borse, parliamo delle nostre scelte musicali, se vuole. O com'è? Delle nostre scelte musicali, se vuole. O se no cerchiamo di capire, visto che lei oggi ne ha scritto in prima pagina su Sole 24 Ore, perché, cosa che ripetiamo, devo dire molto più modestamente anche da questi microfoni, ormai da giorni, per non essere sempre in ritardo nella lettura dei movimenti, il problema non è più salvare le banche che non si riescono a salvare, non è più dare un'iniezione di fiducia alle borse che tanto sono in depressione, il problema è tenere botta, fare fronte unico, mettere la linea del Piave sulla parte che riguarda l'economia reale, la crescita europea e soprattutto la componente manifatturiera. Il sistema finanziario e bancario è il valutatore del merito di credito, cioè è il magistrato della concessione del credito. Questa funzione è stata ignorata. E allora è chiaro che si sono allentati i freni del compito di magistrato del merito di credito e il sistema è andato sul moral hazard, sull'azzardo completamente morale. Io vengo dalla Banca d'Italia, il mio maestro, il governatore Carli, diceva che quando la banca abdicava la funzione di valutatore del merito di credito, diventava una bottega di pizzicagnolo, cioè vendeva prosciutti e altre cose. E ha perfettamente ragione che è un compito sociale tremendo, cioè scegliere l'imprenditore, tirare il remo in barca al momento opportuno. Cosa? Questo è stato il fallimento completo e questo, a mio avviso, penso che Cerchiasse non ritorna con le regole. Certo, le regole ti impediscono di accedere, certo. E questo dobbiamo recuperare veramente, questa che possiamo chiamarla etica del sistema bancario. Sì, è nata in America, come cantava Bruce Springsteen, in questa crisi, ma ormai ce la stiamo beccando tutta. Avete appena sentito l'economista, presidente di Unicredit Banca di Roma, Paolo Savona, dire qui il mondo bancario ha abdicato a un ruolo cruciale, lo dice lui, non lo diciamo noi, quello di saper valutare il rischio di credito, si è assunto e ha accolto in pancia qualunque tipo di rischio, tanto si poteva cartolarizzare, girare qualcun altro, e poi c'era anche qualche assicurazione che su questo ti dava anche delle garanzie, e quindi lentamente la soglia dell'attenzione, la soglia della capacità di valutare il rischio è via via scesa fino ai livelli che vediamo adesso. Allora, professor Vaciago, un primo commento a questa dichiarazione di Savona e poi il suo editoriale di oggi sul Sole 24 Ore. L'emergenza ormai diventa la crescita. È brutto parlare dei cocci quando sono già sul pavimento, ma insomma è per questo che stiamo vivendo la peggior crisi degli ultimi 50 anni? Beh, la gravità della crisi dipende dal fatto che tutti hanno fatto del loro peggio, perché appunto continuiamo a apprendere tutte e sole cose che già sapevamo. Il boom dei mutui subprime è 2003-2006 e non erano cose segrete. Che venissero cartolarizzati e messi su altri mercati, chi lo faceva se ne vantava, non lo faceva mica di notte al buio. Quindi non possiamo dire che stiamo scoprendo cose gravi che non sapessimo già. Attenzione, il petrolio alle stelle e gli alimentari alle stelle fino a luglio scorso, che affamano e impoveriscono la gente, ma era su tutti i giornali. Che vada male l'auto e il frigorifero oggi, tutti i beni di consumo durevoli che consumano molta energia, ma è la logica conseguenza dei prezzi della benzina e dell'elettricità che sono noti a tutti. Quindi io continuo a rimanere sorpreso e preoccupato dello svolgersi di eventi che sembra una recita a soggetto in cui tutti recitano la loro parte, ma ahimè l'esito finale è dei peggiori, perché ovviamente stiamo sempre cercando di risolvere problemi molto passati. Come dico, la bolla dei subprime finisce nel 2006 e diventa finanziaria e bancaria nel 2007. Paulson e i suoi emuli europei sono ottobre 2008. Nel frattempo le banche centrali danno la liquidità che consente di non risolvere il problema ma di portarlo avanti in eterno, perché la liquidità significa c'è spazio anche per andare avanti così domani. La liquidità non risolve nessun problema, ma mi consente, come l'olio del motore, che non è quello che lo fa andare, è quello che evita che il motore si grippi, che si blocchi. Bene, ma siamo così da 14 mesi e con la liquidità non si risolve nulla. ma si tira avanti. Io alla fine mi domando, ma insomma i governi perché li paghiamo? Perché parlino dei problemi e li agitino. Adesso la recessione è iniziata, è negli Stati Uniti e in Europa, ma i mercati temono che vada anche in Asia. Per ora no, non è ancora globale la recessione, la crisi finanziaria sì, ma la recessione no, si può ancora intervenire, fra sei mesi sarà di nuovo tardi. Ma chi proibisce ai nostri governi di fare queste cose? Chi proibiva a Paulson di fare quel piano di salvataggio delle banche americane un anno fa? La dimensione dei problemi era già nota un anno fa e ad aspettare le cose si aggravano, non si risolvono da sole. Allora, se ho ben capito nella sua analisi, lei dice, a parte che gli ascoltatori vogliono i nomi e i cognomi, noi abbiamo fatto nomi e cognomi di ieri, nei giorni scorsi, degli stipendi scandalosi dei manager americani che hanno fatto poi chiudere AIG, Bear Stearns, Lehman Brothers, tutti li abbiamo esposti. Dopodiché, nomi e cognomi, Alan Greenspan, osannato per anni, ora professor Vaciago, si può dire che forse qualche errore Alan Greenspan l'ha commesso nel tenere i tassi così bassi? Nel 2003, visto cioè, che è un po' tardi nel 2009 lamentare. No, ma infatti a me poi non piace iniziare, per carità, le responsabilità sono chiare, dopodiché verranno, ci saranno laddove è necessario in America, non è che si scherzi su queste cose, però possiamo, e resto sull'invito di Giacomo Vaciago, occuparci del prossimo fronte, perché sennò stiamo sempre a guardare con lo specchietto retrovisore. Allora, il prossimo fronte è economico. Lei oggi l'ha scritto molto bene su Sole 24 Ore. Che cosa, visto che tanto i mercati non li tiri su né con iniezioni di liquidità in questo momento, no, hai abbassato i tassi due giorni fa e non è servito a nulla. Garanzie sono arrivate e non è servito a nulla. Il fondo di garanzia britannico, quello tedesco su tutti i depositi, quello annunciato dall'Italia, non sono serviti a nulla. La chiusura è un meno 7% anche oggi. Allora magari concentriamo le risorse su altro. Come si fa a fare in modo che l'emergenza non si trasferisca a pie pari sulla crescita? Oggi il REF, istituto di ricerca, dice che il 2009 per l'Italia farà meno 0,6%, quindi recessione netta. La produzione industriale oggi, dato Istat, ha segnato un meno 14% ad agosto rispetto al mese prima. Corretto per giorni lavorativi sono comunque sempre un meno 5%. Professore. Allora, risolvere i problemi del passato è ovviamente non inutile, ma non basta a curare i problemi del futuro. Il Paulson, il Brown e il nostro e il Berlusconi, fatti un anno fa, avrebbero risparmiato un anno di sofferenza. Però è meglio tardi che mai. Adesso in ogni caso l'emergenza, il mio fondo di stamattina era, attenzione che l'emergenza non è più salvare 1, 2 o 10 banche, è ritornare a occuparsi della domanda dei consumatori. Al limite, se fosse che presi dal panico la gente i risparmi li spende, questo almeno sarebbe un rimedio, perché almeno avremmo la coda a ritirare i soldi e poi la coda nei negozi a fare la spesa. Purtroppo ciò non succede e questo farebbe ripartire alla grande l'economia e risolverebbe i nostri problemi. Purtroppo non succede. Quando la gente ha paura, anche i soldi che ha non li spende, perché ha paura del futuro e non corre a cambiare la macchina, a comprare una casa nuova e così via. Quindi va contrastata a questo punto direttamente sia la paura del risparmiatore che la paura del consumatore, perché altrimenti mi si affloscia l'unica cosa che fa andare l'economia, che è la spesa della gente nei negozi, non solo lasciare non vendete le azioni. Cioè qui il messaggio è non vendete le azioni e vabbè, questo riguarda 2 milioni di italiani su 57 milioni. Il problema vero è che le nostre mogli e le nostre mamme tornino a fare la spesa perché vedono un futuro sereno davanti e non quello che hanno visto negli ultimi giorni. Attenzione, non è vero che a posteriori parlano tutti bene. Commento alcuni sms che stanno arrivando al 349-238-6666. lo dico non pro domo mia, ma molti degli ospiti che abbiamo avuto in questi anni, economisti, operatori di borsa, andate a risentire le puntate se volete, non ho timore di essere smentito, dicevano i livelli di prezzo sono insostenibili, i mutui americani, i prezzi delle case americane sono insostenibili, c'è troppa liquidità in giro, la borsa cresce da 3 anni in maniera ininterrotta. Dopodiché ogni volta che questo veniva detto scriveva, non tutti, ma alcuni scrivevano, ecco che siete sempre pessimisti, siete sempre negativi, siete delle Cassandre, dimenticando che Cassandra avrà pure menato un po' di sfortuna, ma aveva ragione, e infatti adesso siamo così, perché non è vero che tutti fossero nel coro degli ottimisti. Professor Vaciago, è pensabile che la politica quindi intervenga in maniera netta, dura, obbligando quasi le banche e chi eroga il credito a non chiudere i rubinetti alle piccole, soprattutto piccolissime imprese, imprese artigiane e quant'altro? Direi di sì, poi è possibile ed è conveniente comunque anche per condizioni economiche, la riduzione dei tassi va comunque in quella direzione. Attenzione che sta anche qui cambiando un'altra volta lo scenario. Se il pessimismo passa dai mercati all'economia, a quel punto il credit crunch finisce perché semplicemente il cavallo non beve. In recessione il problema non è la carenza di credito, è che le imprese rinviando gli investimenti non vanno più in banca a chiedere i soldi. Quindi noi a questo punto abbiamo un'altra priorità, che è quella di far ripartire la domanda finale. Il capo del governo ha parlato di riduzioni di tasse, le cose non si parla, si fanno. È inutile che il capo del governo auspichi, il capo del governo decida, per piacere, perché parlare e basta è la cosa peggiore. Quindi se la diagnosi, come io in parte condivido, è che presto avremo bisogno di una riduzione di tasse, beh, allora è inutile aspettare di vedere crescere ancora la cassa integrazione e così via, deciditi. Bisogna, e la gente è tranquillizzata dai fatti, non dalle chiacchiere. Beh, in fondo, lo dico non per fare l'avvocato d'ufficio del governo, ma il fondo di garanzia dopo l'iniziativa inglese è un'iniziativa, anche l'idea di agevolare le banche. Forse non basta più. No, sicuramente forse non basta più. La paura contagia i mercati e chiede cose più immediate e dirette sulla domanda finale. Mm-hmm. Noi stavamo ancora evitando che fallissero le banche, se no l'economia soffre, ma ormai l'economia sta soffrendo e quindi dobbiamo occuparci dell'economia direttamente. Non basta più salvare le banche perché non soffre l'economia, e questo era il mio messaggio. Cioè, lei quello che, come scrive oggi su Sole 24 Ore, cioè il timore è la spirale, visto che ormai Marx lo ha sdoganato, anche Tremonti, citiamolo anche noi, per cui la spirale per cui a un calo della domanda segue un calo della produzione che porta un ulteriore calo della domanda, cioè la spirale negativa? Sì, è quello che vediamo tutto, la gente che è più povera spende di più perché le borse sono crollate, va a fare la spesa per i regali di Natale o quest'anno manda dei bei biglietti dicendo niente regali di Natale. Io temo che il pessimismo da impoverimento, anche se solo sulla carta, perché è solo sulla carta che le mie azioni valgono meno, quell'impoverimento frenerà le spese natalizie e quindi ci regalerà una minor domanda anche nei negozi fra un mese. Va bene, speriamo di no, speriamo che fra un mese in realtà tutto si non si sia sistemato, no, ma insomma abbia preso una dinamica meno da panico sui mercati e quindi anche con una brutta ricaduta sui clienti bancari, siano essi privati, cittadini o imprenditori. Scrivono già molti imprenditori, addirittura io leggo testualmente, non è che possa 40.000 euro di prestito un piccolo imprenditore artigiano, oggi la banca, pur avendo sempre lui rispettato tutti i ratio patrimoniali, la banca gli ha chiesto di rivedere il fido di 40.000 euro e lui si chiede perché devo pagare le colpe e le vacanze di manager meno bravi di me, ho sempre avuto l'utile in crescita da 4 anni e ho l'EBITDA, cioè i guadagni prima delle tasse, al 20%. Ha ragione, non so cos'altro dirle. Grazie a Giacomo Vaciago, commentiamo poi la borsa, tanto oggi è un'unica lunga puntata anche su questo. Alcuni di voi vogliono riascoltare Paolo Savona, ve lo faremo riascoltare. Poi ci sposteremo a Washington perché c'è il Fondo Monetario Internazionale in questi giorni, ma c'è anche il vertice dei G7, in cui chiaramente si parla anche di questo. Il sistema finanziario e bancario è il valutatore del merito di credito, cioè è il magistrato della concessione del credito. Questa funzione è stata ignorata. E allora è chiaro che si sono allentati i freni del compito di magistrato del merito di credito e il sistema è andato sul moral hazard, sull'azzardo completamente morale. Io vengo dalla Banca d'Italia, il mio maestro, il governatore Carli, diceva che quando la banca abdicava la funzione di valutatore del merito di credito diventava una bottega di pizzicagnolo, cioè vendeva prosciutti e altre cose. E ha perfettamente ragione che è un compito sociale tremendo, cioè scegliere l'imprenditore, tirare il remo in barca al momento opportuno. Cosa? Questo è stato il fallimento completo e questo, a mio avviso, penso che Cerchiasse non ritorna con le regole. Certo, le regole ti impediscono di accedere, certo. E questo dobbiamo recuperare veramente, questa che possiamo chiamarla etica del sistema bancario. Così Paolo Savona, l'avete chiesto, ve l'abbiamo fatto riascoltare, attualmente presidente di Unicredit Banca di Roma, raccontare che cosa è saltato nel meccanismo bancario, perché si è arrivati a questa situazione. Le banche, ha detto Savona, hanno smesso a livello mondiale di giudicare il rischio dell'investimento, il giudizio del rischio, il giudizio per arrivare all'erogazione del credito. E mentre i Cure cantano Disintegration in questa puntata quasi surreale in cui cerchiamo di utilizzare la musica come elemento positivo, vediamo la sta borsa, come è andata la settimana. È andata malissimo. Oggi Milano ha perso il 7,1% sull'S&P MIB, Francoforte il 7%, Londra l'8,85%, quasi il 9%. Ancora Parigi meno 7,7%, l'America sta perdendo un secco 4% adesso sui due indici. La lista, il bollettino di chi più ha perso oggi. Le Tenaris, peggior titolo, sospese per eccesso di ribasso, meno 15%, Unicredito meno 13%, come il Banco Popolare, Ubibanca meno 12%, come Fondiaria, Telecom Italia meno 9,4%, Enel meno 8,5%, come Seat Pagine Gialle, Monte dei Paschi meno 8%, Eni meno 7,2%. Sotto i 14 euro per azione, Impregilo meno 6,5%, Alleanza meno 6,3%, Mediolanum meno 6%, Mondadori meno 5,7%, Banca Popolare meno 5,6%, Autogrill meno 5,5%, Finmeccanica meno 5,34%, meno 5,3% il calo di A2A. E Saipem meno 5, Intesa San Paolo, Unipol sospesa meno 4,86, L'Espresso meno 4,5, Buzzi Unice meno 4,2, Pirelli meno 4,2% e ancora Fastweb meno 4,1 e ancora Snam meno 3,9%. In borsa sotto i 4 euro per azione, Terna meno 3,6, chiudiamo con ST Microelectronics meno 3,3, Prismia meno 2,4. Chi ha guadagnato qualcosa oggi? Italcementi più 2,2, Bulgari più 1,6, Atlantia più 1,4, Geox più 1%. Sul titolo Mediaset è successo di tutto, nel senso che era negativo, poi guadagnava il 4%, poi è tornato in negativo, sospeso. Immagino per eccesso di variazione di meno 2% a 3,85 euro, contiene il danno alla Fiat meno 1,6

Martedì, il Fondo Monetario stima in 1.400 miliardi di dollari le perdite dell'economia globale. Le borse affondano ancora. Intanto il vertice Ecofin dei ministri finanziari europei raggiunge un complicato equilibrio. I governi possono iniettare denaro pubblico nelle banche. Bruxelles chiuderà un occhio sugli aiuti di Stato. Mercoledì, nonostante rassicurazioni e piani di salvataggio, le borse vanno ancora a picco. A metà giornata le 5 principali banche centrali al mondo decidono dunque per la prima volta un taglio congiunto dei tassi di interesse. La Gran Bretagna annuncia 50 miliardi di sterline direttamente nel capitale delle maggiori banche per ridare stabilità al mercato del credito. Le borse però affondano ancora una volta. Londra, Milano e Francoforte scivolano di oltre 5 punti. Anche il governo italiano interviene, ma senza nazionalizzazioni, spiega il ministro dell'economia Tremonti. Se ritengono che è necessario più capitale, quel più capitale non lo mettono gli azionisti o il mercato, lo mette il governo. Lo mette il governo quel capitale in una logica che non è di nazionalizzazione ma di supporto. Giovedì gli interventi di emergenza sono ormai stati approntati, le borse europee aprono positive, poi però ripiegano sul calo di Wall Street che termina la seduta con un pesante meno 7,3%. Restano molte incertezze, il segretario del Tesoro americano Paulson dice che ci saranno altri fallimenti. Per il Fondo Monetario il mondo è sull'orlo di una recessione globale. Questa la settimana peggiore dal 1987, 21 anni che le borse non perdevano così tanto, una media del un calo, come ricordavamo, medio tra il 15 e il 16%. Alessandro Melli in collegamento con noi da Washington, vertice dei G7, ha parlato Bush, ha detto useremo tutti gli strumenti per risolvere, sapere quali aiuterebbe. Alessandro, come butta? Butta che i ministri finanziari del G7 si riuniranno fra poco insieme ai governatori e credo che non ci sia un altro incontro del G7 che si svolge in una situazione così drammatica. Hai citato l'intervento del presidente Bush. Il problema di Bush è che la sua credibilità non solo presso i mercati ma presso l'opinione pubblica è molto scarsa. È un presidente alla fine di due mandati decisamente non soddisfacenti, che non ha molto da dire o quantomeno nessuno vuole ascoltare in questo momento. Vedremo se i mercati ascolteranno il G7, però è chiaro che il G7 non può permettersi di fare un comunicato come quelli che fa di solito, in cui genericamente dice che lavoreranno tutti assieme, che intendono cooperare. Ci si aspetta un segnale stavolta molto più forte. E quale potrebbe essere, in conclusione Alessandro, un segnale più forte? Perché i tassi li hanno abbassati, i fondi di garanzia li hanno tirati fuori, Gran Bretagna, Italia, ma poi anche l'America. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? Abbiamo parlato molto, avete parlato molto giustamente in trasmissione di questo tracollo delle borse. Paradossalmente il tracollo delle borse è solo un sintomo, neppure il più grave, e credo che quello che preoccupi più di tutto in questo momento è il fatto che sono completamente paralizzati i mercati monetari, il mercato interbancario. Le banche non prestano all'economia, ma non prestano nemmeno più le une alle altre. Questo, diciamo, che è l'ingranaggio principale di tutti i mercati finanziari. La questione delle borse, diciamo, che viene di conseguenza. Allora il G7 credo che dovrà muoversi su tre linee: la ricapitalizzazione delle banche, che ieri il Fondo Monetario, il direttore del Fondo Strauss-Kahn, ha detto è la cosa più importante. L'altra è quella, come previsto dal piano Polso, di eliminare dai bilanci delle banche queste attività tossiche, questi prodotti derivati ormai di valore quasi quello di carta straccia. E il terzo elemento è quello di continuare a fornire liquidità e sperare che questi mercati interbancari si rimettano in movimento. Credo che alla fine però anche il settore privato dovrà assumersi le sue responsabilità. Allora, ho capito benissimo cosa dici: eliminare i prodotti tossici, garantire liquidità e andare con anche una ricapitalizzazione. Grazie Alessandro Melli in collegamento con noi da Washington, dove sta per iniziare il vertice del G7, vertice difficilissimo. Allora, abbiamo detto che è la peggiore settimana di borse dal 1987, mai così male, 400 miliardi in meno di capitalizzazione anche oggi. Alcuni di voi dicono: ma vi rendete conto del danno che fate? Beh, insomma, non è che proprio i mercati li abbiamo mossi noi oggi, però siccome prima ci davate dei pessimisti, adesso che esageriamo, noi manteniamo un cauto ottimismo, tutto sta venendo giù, ma alcuni l'avevano già detto, e allora salutiamoci con un po' di ironia. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. E un grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno, Gaia Romani per l'assistenza in redazione, a Filippo Reggi per l'assistenza in regia, da Sebastiano Barisoni le auguro di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo comunque lunedì dalle 17 in poi.